percorrete le vie di Gerusalemme. Osservate, per favore, ed informatevi. Cercate per le sue piazze se troverete qualcuno, se c'è chi pratichi giustizia, chi cerchi fedeltà, ed io la perdonerò. Anche se dicono vivente è il Signore, essi giurano certo per il falso. Signore, i tuoi occhi non sono forse per la fedeltà? Li hai percossi, ma non si affliggono. Li hai distrutti. Han rifiutato di accettare la correzione. Hanno indurito la loro faccia più che la pietra. Hanno ricusato di ritornare. Ma io pensavo, certo essi sono poveri, sono stolti, perché non conoscono la via del Signore, il giudizio del loro Dio. Me ne andrò verso i grandi e parlerò loro. Certo essi conoscono la via del Signore, il giudizio del loro Dio. Ma anch'essi insieme hanno rotto il giogo, hanno infranto i legami. Per questo li colpisce il leone della foresta. Il lupo della steppa li disperde, la pantera vigila le loro città. Chiunque se ne esce è sbranato, perché molte sono le sue trasgressioni, sono aumentate le sue ribellioni. Perché dovrei perdonarti? I figli tuoi mi hanno abbandonato, han giurato per dei da nulla. Io li ho saziati, ma hanno adulterato, e nella casa della meretrice si incidono. Stalloni pasciuti e ardenti essi sono, ognuno alla donna del suo amico nitrisce. Per queste cose non dovrei punire? Oracolo del Signore. E di una nazione siffatta non dovrei vendicarmi? Salite tra i suoi filari e distruggete, ma non completamente i suoi tralci, perché non sono più del Signore. Sì, contro di me hanno agito perfidamente la casa di Israele e la casa di Giuda. Oracolo del Signore. Hanno rinnegato il Signore e han detto: non esiste. Non verrà contro di noi sventura, né spada né fame, noi vedremo. Quanto ai profeti, appartengono al vento, e chi parla non c'è il loro. Così accade loro. Pertanto, così dice il Signore, Dio degli eserciti: perché avete proferito tale discorso, eccomi. Io renderò le mie parole in bocca tua qual fuoco. Radunerai il popolo come legna e lo divorerà. Eccomi, io addurrò contro di voi una nazione da lontano, o casa di Israele, oracolo del Signore, una nazione poderosa, una nazione di antica data, una nazione di cui ignori la lingua e non comprendi quel che dice. Il suo turcasso è come sepolcro spalancato. Essi sono tutti eroi. Divorerà le tue messi e il tuo pane. Divorerà i tuoi figli e le tue figlie. Divorerà il tuo gregge e i tuoi armenti. Divorerà la tua vigna e le tue ficaie. Demolirà le tue città fortificate, nelle quali tu confidi con la spada. Tuttavia ancora in quei giorni, oracolo del Signore, io non agirò a fondo, ma avverrà che se diranno per qual motivo il Signore nostro Dio ci ha fatto queste cose, allora dirai loro: poiché mi avete abbandonato ed avete servito dei stranieri nel vostro paese, per questo voi servirete gli stranieri in un paese non vostro. Annunziate questo alla casa di Giacobbe. Fatelo sentire a Giuda. Dite: ascoltate questo, per favore, o popolo stolto e senza cuore. Avete occhi, ma non vedete. Avete orecchie, ma non sentite. Non mi temerete dunque? Oracolo del Signore. O non tremerete dinanzi a me, che ho posto la sabbia come confine al mare, barriera eterna che non sorpassa? I mari si agitano, ma non prevalgono. Spumeggiano le loro onde, ma non la sorpassano. Questo popolo, però, ha un cuore ribelle e contumace. Si son voltati e se ne sono andati. Neppur han detto in cuor loro: abbiamo timore del Signore nostro Dio, che invia la pioggia in autunno e a primavera, al tempo suo, che ci custodisce le settimane fisse per il raccolto. Le vostre iniquità hanno sconvolto queste cose, e i vostri peccati hanno allontanato la felicità da voi. Sì, si trovano tra il mio popolo dei malvagi, spiano di nascosto come uccellatori, pongono trappole, catturano uomini. Qual gabbia piena di volatili, tali sono le case loro, piene d'inganno. Per questo ingrandiscono ed arricchiscono. Ingrassano, divengono belli, oltrepassano tutti i limiti del male. La causa non la difendono, la causa dell'orfano, eppure han successo, né fanno giudizio per i poveri. Non punirò dunque queste cose? Oracolo del Signore. Contro una nazione siffatta non dovrò vendicarmi? Cosa esecrabile e abominevole si realizzerà nel paese? I profeti profetizzano nella menzogna, i sacerdoti insegnano di proprio arbitrio, eppure il mio popolo ama che sia così. Ma cosa farete quando verrà la sua fine?